Radio 24 Reportage. Testimoni del Novecento. La guerra del generale Jaruzelski di Roberto Antonini per Radio Svizzera Italiana. Wojciech Jaruzelski, 86 anni, sotto processo in Polonia per presunti crimini quando era al potere negli anni 80 e in particolare per la proclamazione della legge marziale nel dicembre del 1981 che pose fine alla primavera politica polacca, quel tentativo di aprire il paese alla democrazia che vide protagonista il sindacato Solidarnosc. L'anziano ex presidente ci riceve per una lunga intervista. Sono state concordate 2 ore in uno stabile del centro di Varsavia, dove in qualità di ex capo dello Stato beneficia di un ufficio un po' polveroso che ricorda i tempi della guerra fredda e del design un po' spartano proprio di quei tempi, oltre la cortina di ferro. Deportato da Stalin con la famiglia in Siberia, resistente antinazista, membro del Partito Comunista Polacco, generale, primo ministro, presidente, l'uomo del colpo di Stato, certo, ma anche della tavola rotonda, i negoziati che nel 1989 aprirono definitivamente il paese e poi per effetto indotto l'Europa alla democrazia. Jaruzelski appare stanco, malato, amareggiato perché si sente vittima di un complotto ordito dal presidente Kaczynski che avrebbe scatenato una caccia alle streghe contro ex comunisti e simpatizzanti. Opinione questa condivisa, e può sembrare sorprendente, anche da molti ex nemici di Jaruzelski, ex leader di Solidarnosc come Adam Michnik o come lo stesso Wałęsa. E i polacchi sono divisi. C'è chi lo considera l'emblema vivente del regime comunista, chi invece come un vero patriota, comunista certo, ma coerente e onesto. Wojciech Jaruzelski nasce il 6 luglio del 1923 a Kurów, Polonia. Appartiene a una famiglia di origini nobiliari, cattolica. Famiglia benestante che dopo la firma del patto germano-tedesco, Ribbentrop-Molotov e l'invasione sovietica della Polonia, nel settembre del 39, viene arrestata dalla polizia politica e deportata nei gulag staliniani. Nel 1940, quando Jaruzelski ha 16 anni, la sua famiglia, come altre 25.000 famiglie polacche, viene deportata in Siberia e in Kazakhstan. Qui, nel lavoro forzato nelle miniere di carbone e di Karaganda, subisce danni permanenti agli occhi e alla schiena. Divenuto orfano di padre, si arruola nell'esercito della resistenza polacca che si forma in Russia, esercito appoggiato da Mosca. Ecco, cosa può dirci della sua infanzia? Chi era la famiglia Jaruzelski in quegli anni? La prima riflessione che vorrei fare, prima di entrare nello specifico dell'intervista, riguarda la scarsità di tempo che mi rimane, il poco tempo che ormai ho davanti a me. Urodziłem się w rodzinie głęboko patriotycznej, z tradycjami sięgającymi bardzo głęboko. Sono nato in una famiglia impregnata di forti tradizioni patriottiche. La mia è una famiglia polacca sin dal 1200 o forse 1300. Da sempre questa famiglia ha coltivato e difeso l'idea dell'indipendenza della nostra nazione. Mio nonno, di cui porto il nome di battesimo, Wojciech, partecipò all'insurrezione del gennaio del 1863. Mio padre, che partecipò alla guerra con la Russia negli anni 20, fu poi deportato in Siberia, dove trascorse 12 anni, ancor più di quanti ce ne passai io. La mia, dunque, è una famiglia con una radicata tradizione patriottica, oltre che cattolica. Io, in effetti, sono nato come cattolico. Polak cattolico. Wojciech Jaruzelski è stato deportato in Russia con la famiglia. Può spiegarci perché? Samo moje usytuowanie społeczne, szlacheckie, ziemiańskie właściciele majątku. L'origine sociale della famiglia fu la ragione della repressione. La nostra classe sociale di appartenenza era la nobiltà. Questo era per definizione, agli occhi dei sovietici, un male. Per questo fummo deportati in Siberia. Io fui deportato con mia madre e mia sorella nel bel mezzo di quella regione, in piena taiga, dove passavo le mie giornate a tagliare legna nel quadro dei lavori forzati. Mio padre, invece, fu deportato in un altro luogo e imprigionato in un lager. Passò diversi anni in carcere. Si ammalò. Quando fu liberato era già molto malato e stanco e morì in poco tempo. Io lavorai qualche anno. Dopodiché colsi l'occasione offerta dalla creazione in Russia dell'esercito di resistenza polacco. Mi arruolai e ritornai così in Polonia. Do wojska, które szło z bronią w ręku do Polski. La deportazione fu per me un fatto molto difficile, drammatico. Avevo 16 anni e fino ad allora avevo vissuto come in un paradiso, un mondo protetto. Non mi era mai mancato nulla. Avevo trascorso 6 anni in una scuola media cattolica gestita da padri mariani, in condizioni ottimali per un giovane di quell'epoca. Condizioni ottimali per crescere. Tutto questo si interruppe con la deportazione. Fu una rottura drastica, brutale. Da quel mondo passai al lavoro forzato nella Siberia gelida, assieme alla madre ammalata, assieme alla sorellina, mentre il padre fu deportato in un altro lager. Mi sentii investito di una grande responsabilità. Di colpo mi ritrovai con tutto il carico familiare sulle mie spalle. Generale, il fatto di essere deportato dai sovietici in quel momento era l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, c'è stata la spartizione, la Polonia è stata invasa dalla Germania, poi dalla Russia. Ecco, questo fatto di essere sostanzialmente deportato da quelli che poi diventeranno i suoi amici. Chi come me ha vissuto tanti anni può capire come nella vita, nel corso degli anni, può cambiare il modo di pensare, di percepire la realtà, di giudicare. Si accumulano esperienze, si maturano conoscenze, si fanno riflessioni in base alle persone che si incontrano, alle relazioni che si instaurano, alle cose che succedono, ai libri che si leggono. Si riconsidera così il proprio pensiero, la propria vita. Non creda che io sia un caso isolato. Questo tipo di cambiamento, di trasformazione, non è così raro. Per ritornare allo specifico della sua domanda. Ja bym oczywiście ciężko poszkodowany przez władzę radziecką, cała moja rodzina. È vero, abbiamo sofferto per il male infertoci dai sovietici. Oltretutto, io sono cresciuto in una tradizione e in un contesto antisovietico. Però la vita dura che ho vissuto mi ha insegnato che le cose non sono così facili e così semplici come possono apparire a prima vista. Ho per esempio capito in quel contesto di crudeltà nel quale ero stato confinato con la mia famiglia quanto siano essenziali i rapporti umani diretti. Który dzielił się z nami swoim chlebem. Szczególny rodzaj Rosjan to Sybiracy. Certo, i sovietici ci hanno inferto dolore, sofferenza. Ma la popolazione russa della Siberia ci ha aiutato. Ci ha permesso di non morire, di sopravvivere. Gente a prima vista dura, ma sotto sotto molto cordiale, umana, che divideva il cibo con noi, ci sosteneva, aiutava. Vi era dunque una situazione nella quale convivevano realtà e sentimenti contrastanti. Da una parte il retaggio antirusso che mi portavo addosso, l'ostilità antirussa, l'odio per il sistema totalitario. Dall'altra la simpatia, la cordialità che ci regalavano i russi, gli abitanti della Siberia, le persone umili. Questo secondo aspetto positivo si è poi rafforzato in me, anche grazie all'amore per la lettura, per Tolstoi, Turgenev, Dostoevsky, Chekhov. Poznałem z tej książki naturę rosyjskiego człowieka, mogłem to skonfrontować. Mi sembrava di conoscere pian piano la vera natura del russo, l'animo russo. E la vera svolta avvenne quando mi arruolai nell'esercito nel 1943. Avevo molti colleghi russi, superiori ma anche subordinati, perché ero un ufficiale. Dovevamo sconfiggere il nemico nazista e assistetti a un grande eroismo. Vidi molti compagni cadere in battaglia, li vidi soffrire, morire, e non c'è nulla quanto il sangue versato che possa unire di più due persone. Ma capii anche che la nazione russa fu la prima vittima dello stalinismo. E ho così imparato a capire, ad avere empatia per questa nazione. I zwykli Rosjanie są też ofiarą tego systemu. Generale Jaruzelski, lei nel 1943 prende le armi nell'esercito polacco, filorusso, della resistenza, e lei, generale, arriva anche a Berlino. Ecco, se ci può raccontare un po' questi due anni, anche brevemente, e il suo arrivo poi a liberare Berlino. È stata la fine del Terzo Reich, dunque un momento immortalato nella storia, uno dei grandi momenti del XX secolo. Cosa ricorda di quei giorni, in particolare di Berlino? To była bardzo długa droga od rosyjskiej rzeki Oka aż do Elby, do Łaby. Questo momento della mia vita è troppo lungo, complesso, per essere racchiuso in un'intervista. Meriterebbe un libro. Comunque, partii dal fiume Oka in Russia per approdare sull'Elba in Germania. Fui ferito due volte. Io ero nell'unità di riconoscimento, un'unità particolarmente esposta al rischio. Ho visto morire molti compagni e il mio miglior amico cadde nei pressi dell'Oder. Dovrei raccontare troppe cose, è impossibile. Mi limito a parlare di Berlino, a cui lei ha accennato. Sì, un momento simbolico che ha segnato la fine della guerra. Io non ho partecipato direttamente alla liberazione della capitale tedesca. La mia unità era posizionata a nord della città. Combattevamo in quell'area. Abbiamo, per esempio, partecipato alla liberazione del campo di concentramento di Sachsenhausen. Ci siamo poi spostati più ad ovest per incontrare le truppe americane che giungevano da quella parte. Elbe do Łaby, z drugiej strony pojawili się Amerykanie. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.